Europa 24. Ben ritrovati da Valeria De Rosa, nuova puntata di Europa 24. Proseguiamo nel nostro viaggio all'interno della crisi greca. Dopo aver fissato le cause, cerchiamo di capire se siano stati commessi degli errori nel corso di questi 5 anni di trattative e programmi di salvataggio e da chi siano stati commessi. L'Europa, attraverso Eurostat, non ha vigilato, ma sono altre, secondo il professor Messori, direttore della Lewis School of European Political Economy, le colpe dell'Unione. Certamente Eurostat non si è accorta per tempo delle deficienze nella registrazione dei conti pubblici greci. Naturalmente è molto difficile attribuire responsabilità, perché Eurostat si fonda sulle informazioni che provengono da ciascuno degli stati membri. Resta il fatto, che è il fatto sostanziale, ossia il ritardo con cui le istituzioni europee sono intervenute nelle varie tappe della crisi greca. Se il primo intervento nel 2010 fosse stato fatto per tempo con le istituzioni di salvataggio degli stati membri che poi furono costituite successivamente e a condizioni meno punitive, probabilmente la crisi greca avrebbe potuto essere gestita in modo totalmente diverso. Naturalmente resta il fatto che anche le istituzioni di politica economica della Grecia hanno avuto comportamenti opportunistici che non hanno facilitato questo processo. Ciò ha moltiplicato i costi sociali per la popolazione greca e ha pesato in modo molto più grave sui bilanci degli altri stati membri dell'Unione Economica e Monetaria Europea. Più dura la posizione del professor Giuseppe Di Taranto, ordinario di storia economica alla Lewis. Gli errori non sono mancati né da parte della Grecia, e l'abbiamo già sottolineato prima, ma sicuramente non sono mancati neanche da parte dei creditori. Non dimentichiamo che Francia e Germania hanno venduto titoli greci dal 2010 al 2011 per quantità esorbitanti, la Germania circa 40 miliardi, e nel 2012 poi sono arrivati, una volta venduti e quindi liberatisi Francia e Germania dei titoli greci, sono arrivati alla ristrutturazione del debito. Ma il problema è soprattutto nei trattati, che ormai è necessario cambiare. Non si può avere un'unione monetaria europea senza una mutualizzazione del debito dei singoli paesi. Non dimentichiamo mai che Hamilton, Stati Uniti d'America, il primo passo che fece all'atto della unificazione come stati federali fu proprio quello di mutualizzare i debiti. Quando oggi sentiamo dire costantemente che è vero, bisogna tenersi ai trattati e quindi il debito non può mutualizzare, ma non mi pare che per esempio nei trattati ci sia scritto che una nazione possa uscire, proposta di Schäuble come ben sappiamo, per 5 anni per poi eventualmente rientrare. Ecco perché io insisto molto che i trattati non si possono applicare rigidamente per gli altri e interpretare per se stessi, come fanno alcune nazioni nel nord Europa. Ed è tutto anche per questo appuntamento con Europa 24. Un saluto da Valeria De Rosa. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.